Simone apprese che Trifone aveva radunato un grande esercito per andare nella terra di Giuda per devastarla. Vedendo che il popolo era impaurito e spaventato, salì a Gerusalemme e radunò il popolo. Quindi li esortò e disse loro: «Voi conoscete quanto io, i miei fratelli e la casa di mio padre abbiamo fatto per le leggi e per il luogo santo, le guerre e le angustie che abbiamo visto. È per questo che i miei fratelli sono tutti periti per la causa di Israele, ed io sono restato solo. Ora non sia mai che io voglia risparmiare la mia vita in qualsiasi momento di tribolazione. Non sono infatti migliore dei miei fratelli. Piuttosto vendicherò la mia nazione, il luogo santo, le vostre mogli e i vostri figli, giacché tutte le genti a causa del loro odio si sono coalizzate per sterminarci». All'udire queste parole lo spirito del popolo si riaccese e risposero a gran voce dicendo: «Tu sei il nostro capo, al posto di Giuda e di Gionata, tuo fratello. Combatti la nostra battaglia e tutte le cose che dirai noi le faremo». Allora egli radunò tutti gli uomini atti a combattere e si affrettò a terminare le mura di Gerusalemme, fortificandola all'intorno. Poi inviò Gionata, figlio di Assalonne, a Giaffa con un numeroso esercito, e questi ne cacciò via gli abitanti e vi si stabilì. Trifone si mosse da Tolemaide con un grande esercito per andare nella terra di Giuda, portando con sé Gionata sotto buona guardia. Simone allora andò ad accamparsi in Adida, di fronte alla pianura. Quando Trifone seppe che Simone aveva preso il posto di Gionata, suo fratello, e che stava per dargli battaglia, gli inviò messaggeri per dirgli: «È a causa del danaro che tuo fratello Gionata doveva al tesoro reale per gli incarichi da lui avuti che noi lo tratteniamo. Ora perciò mandaci 100 talenti e 2 dei suoi figli in ostaggio, sicché una volta rimesso in libertà egli non si separi da noi, e noi lo lasceremo». Simone capì che parlavano con inganno e tuttavia mandò a prendere il danaro e i fanciulli per non suscitare una grande ostilità tra il popolo, il quale avrebbe detto: «È per il fatto che egli non gli ha inviato il danaro e i fanciulli che Gionata è perito». Perciò gli mandò i fanciulli e i 100 talenti, ma quello, avendo mentito, non lasciò libero Gionata. Dopo ciò Trifone riprese la sua marcia per invadere la regione e per devastarla, aggirandola per la via di Adora. Ma Simone con il suo esercito gli si opponeva dovunque egli andasse. Frattanto quei dell'Acra inviarono messi a Trifone per sollecitarlo ad andare in loro aiuto per la via del deserto e ad inviare loro viveri. Trifone fece preparare tutta la sua cavalleria per andare. Ma in quella stessa notte cadde molta neve, ed egli, per la neve, non poté andare. Perciò levò il campo e se ne andò nel Galaad, e come giunse nei pressi di Bascama, uccise Gionata, il quale fu sepolto là. Trifone, quindi, si mosse di lì e fece ritorno alla sua terra. Simone mandò a prendere le ossa di Gionata, suo fratello, e lo seppellì in Modin, città dei suoi padri. Tutto Israele lo pianse con grande pianto e fecero lutto su di lui per molti giorni. Simone poi fece una costruzione sul sepolcro di suo padre e dei suoi fratelli e li innalzò alla vista con pietre levigate sia sul di dietro che sul davanti. Vi drizzò 7 piramidi, l'una di fronte all'altra, per suo padre, per sua madre e per i suoi 4 fratelli. Le fece decorare con grandi colonne all'intorno e sulle colonne fece scolpire armi a ricordo perpetuo, e a fianco delle armi alcune navi scolpite, in modo che si potesse vedere da tutti coloro che navigano nel mare. Questo è il sepolcro che egli fece fare in Modin fino a questo giorno. Trifone si comportava con inganno verso il giovanissimo re Antioco e lo uccise. Regnò al suo posto, cinse il diadema dell'Asia e fu una grande calamità per il paese. Intanto Simone ricostruì le fortezze di Giuda, le munì di alte torri, di grandi mura, di porte e di sbarre, e rifornì tali fortezze di viveri. Inoltre scelse alcuni uomini e li inviò dal re Demetrio affinché concedesse l'immunità al paese, poiché tutte le azioni di Trifone non erano che rapine. Il re Demetrio gli inviò una risposta conforme alle sue richieste e gli scrisse una lettera di questo tenore. Il re Demetrio a Simone, sommo sacerdote e amico dei re, agli anziani e alla nazione dei giudei, salute. Abbiamo gradito la corona d'oro e la palma che ci avete inviato. Siamo pronti a fare una pace durevole con voi e a scrivere ai funzionari di concedervi le immunità. Quanto abbiamo stabilito nei vostri riguardi resta stabilito, ed anche le fortezze che voi avete edificato restino a voi. Condoniamo gli errori e le mancanze commesse fino al giorno d'oggi, e così pure la corona che ci dovete. Se qualche altro tributo gravasse su Gerusalemme, non sia più da riscuotere. Se poi vi sono tra voi uomini atti ad essere arruolati per la nostra guardia, si arruolino e vi sia pace tra noi. L'anno 170 fu tolto il giogo delle genti da Israele, e il popolo incominciò a scrivere nei documenti e nei contratti: anno primo di Simone, sommo sacerdote insigne, stratega e capo dei giudei. In quei giorni Simone si accampò sotto Gezer e la circondò con le sue truppe. Costruì una torre mobile, l'accostò alla città e, abbattuta una torre, se ne impadronì. Quelli che erano nella torre mobile fecero irruzione nella città e vi fu in essa una grande agitazione. Gli abitanti della città allora salirono con le mogli e con i figli sulle mura e, stracciatesi le vesti, incominciarono a gridare con grande voce, supplicando Simone di dar loro la destra. Dicevano: «Non trattarci secondo le nostre malvagità, ma secondo la tua misericordia». Simone si accordò con loro e non li combatté più. Tuttavia li cacciò dalla città e ne purificò le case, nelle quali vi erano idoli, ed entrò in essa tra canti di inni e di benedizioni. Bandì da essa ogni impurità e vi stabilì uomini osservanti della legge. La fortificò e vi edificò una casa per sé. Ora quelli dell'Acra a Gerusalemme erano impediti di uscire e di andare nella regione per comprare e per vendere. Soffrivano molto la fame, e molti di essi erano già periti per la fame. Perciò supplicarono Simone di accettare la loro destra, ed egli la concesse, ma li scacciò di lì e purificò l'Acra dalle contaminazioni. Vi entrarono il 23 del secondo mese dell'anno 171, tra canti di lode e rami di palme, con cetre, cembali e arpe, inni e canti, poiché un grande nemico era stato sradicato da Israele. Simone stabilì di celebrare ogni anno tale giorno con letizia. Fortificò il monte del Tempio accanto all'Acra e vi andò ad abitare insieme ai suoi. Simone vide allora che suo figlio Giovanni era ormai un uomo e lo pose a capo di tutte le truppe. Costui pose la sua residenza a Gezer.